natural growth and strength. After about 4 or 5 years, they become very powerful and very dangerous, and this hasn't been factored into the experiment. So it's both very idealistic and presumptuous, but also very naive. And in the end, the chimpanzee doesn't really want to learn language. He doesn't care for language. What does he need it for? He'll do things for us to get what he wants. So I guess it's a failure in one respect, but every failure in science is not a failure because you learn something from its very failure. Ecco, dal punto di vista scientifico, lo dice James Marsh, non è stato un fallimento in sé, perché anche il fallimento nella scienza insegna qualcosa. C'è da dire che effettivamente questo esperimento è stato, da un certo punto di vista, ingenuo, da un altro punto di vista forse un po' crudele. Sì, e qui tra l'altro notate la costruzione della prima frase, perché quando un verbo è fatto con una preposizione, la si mette sempre alla fine, quindi the first family he is put with, oppure potremmo dire, non so, the first movie that will be on tonight, o quindi notate appunto to put with è il verbo, però se si costruisce una frase lo dobbiamo mettere alla fine la preposizione. E ovviamente qui c'era un problema con questo linguaggio dei segni, perché lo scimpanzé non era per niente interessato. He doesn't really wanna learn language. Non gli interessava imparare a parlare, o soprattutto con questo sign language. Ed è interessante, come diceva Marta, appunto, il fatto che l'esperimento fosse idealistic, quindi l'idea, insegniamo a parlare con il sign language allo scimpanzé, ma anche presumptuous, che vuol dire presuntuoso, perché che gli esseri umani possano insegnare ad altri animali che hanno avuto un percorso evoluzionistico diverso quello che per noi è prezioso, e poi naive, che vuol dire ingenuo. Questa è una, forse viene dal, naturalmente una parola che viene dal francese, noi diciamo naif, gli americani dicono naive, ma vuol dire appunto non naif nel senso di quadro naif, ma ingenuo. Tra l'altro, due aspetti importanti. Da un certo punto di vista, la prima famiglia, dicevamo, nemmeno conosceva il linguaggio dei gesti, quindi hanno dovuto impararlo per poi insegnarlo al povero Nim. E poi non avevano immaginato quanto potesse diventare grande uno scimpanzé, perché da piccoli sono dei deliziosi cuccioli, ma presto crescono. E quindi powerful, quindi pieno di potere, così come powerless invece è impotente, e dangerous, pericoloso. Sono due di quegli aggettivi che sappiamo sono lunghi, e quindi se volessimo fare comparativo superlativo dovremmo dire more powerful, more dangerous, most powerful, most dangerous, e non aggiungere il suffisso alla fine. Ma passiamo a parlare non tanto di questo progetto quanto del regista, quanto di questo James Marsh, che appunto ha già vinto un premio Oscar per Man on Wire. Allora, la domanda, insomma, è abbastanza inevitabile: ha cambiato la sua vita vincere un premio Oscar? E beh, insomma, James Marsh dice effettivamente un po' sì. Well, it's much easier, and that's the very good thing about having a film that's successful, or more importantly that's perceived to be successful. They aren't always the same thing. So one could be cynical about winning an Oscar and going to Hollywood and picking it up, but actually my biggest desire is to keep making films, and this has allowed me to very quickly make another three films since I finished Man on Wire. So I'm very grateful for that story, which was a gift. It's a beautiful story, and I think it reached people the way it reached me when I first read it. So in that respect I'm enormously grateful for that film, and it's much easier for me now than it was before that film. But my bigger objective is for the film to flow and be a story the way that any other cinematic story works. Eccolo qui, è sincero, dice effettivamente sì, vincere un Oscar qualcosina ti cambia nella vita e soprattutto nel modo di lavorare. E qui vediamo invece l'uso tradizionale del comparativo, esattamente come in italiano, quindi easier, più facile, much easier, è molto più facile. Una volta che hai vinto un Oscar, farne un altro. E qui dice una cosa, secondo me, molto bella, anche che dà l'idea che oltre ad essere bellissimo deve essere anche un uomo, insomma, intelligente, e dice once you do a successful movie, o comunque qualcosa che è perceived to be successful, che è percepito come una cosa di successo, era il documentario Man on Wire, quello su quell'uomo che appunto attraversava i grattacieli, no? Sì, su un filo. E lui dice aren't always the same thing, non sono sempre la stessa cosa, però insomma la parola chiave è comunque successful, tu vieni percepito così e puoi fare altri film. dice effettivamente si può avere un atteggiamento cinico nei confronti della vittoria di un Oscar, però lui effettivamente dice: io sono stato molto grato di aver vinto l'Oscar e di aver potuto fare quel film che è stato molto importante per lui, Man on Wire. Sì, perché poi a volte spesso lui, lo sentite dall'accento, è inglese, europeo, a volte si ha questo snobismo, no? Un po' nei confronti degli Oscar, specie per i documentari. Poi lui dice sì sì, però going to Hollywood, picking up the Oscar, torni e sei un'altra persona, sei una persona a cui dal punto di vista cinematografico si aprono molte porte, tant'è che lui dice I finished three movies since I filmed three more movies since I finished the other one, quindi e probabilmente non sarebbe successo senza quel viaggio in America e senza quel film che per lui è stato un dono, possiamo dire a gift, e che secondo lui comunque reached the audience, è arrivato agli spettatori the same way that reached him, cioè una storia che appunto è andata dritta al cuore, alla mente delle persone. C'è da dire appunto adesso può avere degli obiettivi più grandi, bigger. E l'abbiamo detto, lui ha vinto l'Oscar come miglior documentario. A volte si può pensare che possa essere un Oscar tra virgolette, tra molte virgolette, minore, però lui dice: quello che per me è importante cos'è? I suoi sono documentari, ma sono comunque delle storie, delle grandi storie. Lui è un monaco dei documentari, quindi dice: per me il bigger objective è the film to flow, cioè quello che lui filma, quello che lui fa deve essere comunque una cosa che scorre, perché secondo lui un documentario è works like any other cinematic story. Questo cinematic non lo sentivamo da tanto tempo, no? Una storia cinemica. Ma la buona notizia per quanto riguarda questo Project NIMH è che effettivamente i diritti sono stati comprati in Italia e quindi lo vedremo in sala, lo vedremo in DVD, però insomma sarà un film che verrà distribuito in Italia dalla Sacher. Si conclude qui il nostro appuntamento con English 24. Vi ricordo anche i nostri appuntamenti con la rivista in edicola e anche con la nostra pagina di Facebook. Ringrazio Pietro Lacorte in regia, da Marta Cagnola e Giulia Crivelli l'augurio di una buona serata.